La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 94. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. L'articolo 94 rappresenta lo snodo fondamentale della fiducia parlamentare. Infatti, il governo deve avere la fiducia delle due Camere e ciascuna Camera che accorda la fiducia e la deve accordare entro 10 giorni dalla formazione del governo. Normalmente accade che il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica assieme ai Ministri. A quel punto ci sarà il giuramento del Presidente del Consiglio e dei Ministri, i quali entro 10 giorni devono presentarsi in Parlamento per la fiducia. Il momento di insediamento del governo avviene quindi in Parlamento con il Presidente del Consiglio che illustrerà il proprio programma di governo. A quel punto ci sarà la votazione di fiducia. Il governo, per entrare nella pienezza dei suoi poteri, deve ricevere la fiducia iniziale. Ricevuta la fiducia, si presume che questa stessa fiducia resti per tutto il rapporto funzionale, cioè per tutto il tempo in cui il governo continua ad operare. Questo cosa significa? Significa che se una Camera vota contro una proposta del governo, tale voto contrario non fa venir meno la fiducia. Tutto ciò è specificato nell'articolo 94, quarto comma. Il voto contrario di uno o entrambe le Camere su proposta del governo non importa obbligo di dimissioni, cioè una volta insediata la fiducia con il voto iniziale della mozione di fiducia, il governo resta in carica fino al momento in cui non cessa le sue funzioni. Nel pieno rispetto del modello parlamentare, la Costituzione delinea come ipotesi principale di cessazione delle funzioni di governo quella della sfiducia parlamentare. Cioè, a un certo punto della vita del governo, i parlamentari, quantomeno un decimo dei componenti della Camera, può chiedere una mozione di sfiducia. Questa sarà votata e messa in discussione in Parlamento e se il governo non ottiene la maggioranza, quindi, come si dice tecnicamente, va sotto, a quel punto il governo cessa dalle sue funzioni, si apre la crisi di governo. Nell'Italia repubblicana abbiamo avuto fino ad oggi 64 governi con 28 presidenti differenti. La cosa particolare è che di questi 64 governi, soltanto 2 hanno cessato il proprio mandato per sfiducia parlamentare. In genere, infatti, a un certo punto della vita governativa, il Presidente del Consiglio si rende conto di non avere più una maggioranza coesa e quindi va al Quirinale e rimette le proprie dimissioni. Da ultimo ricordiamo il caso di Renzi che, dopo le vicende referendarie del dicembre 2016, presentò le proprie dimissioni. La particolarità è invece che soltanto 2 governi sono caduti per sfiducia parlamentare e incredibilmente è stato lo stesso Presidente del Consiglio a far cessare il proprio governo 2 volte per sfiducia. Stiamo parlando di Prodi e infatti sia il governo Prodi 1 che il governo Prodi 2 sono gli unici che sono finiti per sfiducia parlamentare.